radio scompiglio e un'anima lasci e un'anima prendi. C'è sempre qualcosa a cui pensare per abbandonarsi e farsi male, qualcosa da non svegliare, qualcosa da lasciare stare. Cellule, bottoni e cordoni ombelicali, sindromi freudiane e porte chiuse senza chiavi, a ricordarci che dobbiamo senza dubbio stare male. Volevamo ringraziare i nostri sponsor. Guardati le spalle e inizia subito a cercare una storiella mattutina che dia un senso al tuo vagare, alla tua inquietudine morale ed al tuo karma spirituale, altrimenti qui piccolo ti fanno male, molto male. Trasmettendo il filo di disfunzione cosmica, salvala, salvala. Sintonizza la tua mente sul radio scompiglio e dove ti piglio, ti piglio. C'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre qualcosa da sistemare, c'è sempre qualcuno che ti fa incazzare. E pensa in fretta, tu pensa in fretta, se pensa in fretta e risolvi in fretta. Salva la pelle, salvala, stiamo trasmettendo in filo di disfunzione cosmica. Salvala, salva la pelle, salvala, stiamo trasmettendo il filo di disfunzione cosmica. Salvala, salvala. Ad un certo punto della nostra esistenza una miriade di domande si insinua nella nostra mente, minando il nostro già labile equilibrio. Chi siamo? Per cosa resistiamo? Dove dobbiamo andare? Che cosa ci stiamo a fare qui? Ansia. Salva la pelle, salvala, stiamo trasmettendo il filo di disfunzione cosmica. Salvala, salvala, salva la pelle, salvala, stiamo trasmettendo il filo di disfunzione cosmica. Salvala, salvala. Radio Scompiglio chiude qui le sue trasmissioni e vi augura una buona notte.